Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Abbiamo oggi i titoli del nostro sommario che ci aspettano, ma prima voglio ringraziare Peter Bescapè, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Siamo pronti per partire. Sport, colpo di fulmine o lento innamoramento? Raccontateci la vostra esperienza. Un picnic leggero e nutriente. Malattie neurodegenerative. Buone nuove dalla ricerca firmata Teleton. E siccome ogni venerdì parliamo di attività sportiva, il dottor Franco Confalonieri però oggi non è qua in studio con me. Dottor Confalonieri, buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Sente già la mia mancanza? Moltissimo, spero mi sentiate bene, non ci siano problemi. No, la sentiamo bene, ma la butto sulla mancanza perché oggi vogliamo paragonare un po' l'attività sportiva, quello che ci lega all'attività sportiva, come a quello che ci lega ad una persona di cui siamo innamorati. Insomma, parliamo di attività sportiva come se fosse una relazione. A volte scoppia così con un colpo di fulmine e capiamo che è proprio lo sport che cercavamo e ci dà delle forti emozioni, grandi soddisfazioni. A volte invece l'innamoramento è un pochino più lento, ma come nelle vere storie d'amore, a volte questo feeling smette. Può essere il caso, può essere un trauma, può essere un altro amore. E di questo parleremo insieme al dottor Franco Confalonieri e a voi, che se volete intervenire il nostro numero verde è già attivo 800 24 00 24. Ma oggi abbiamo in linea con noi un altro amico della nostra trasmissione, il dottor Stefano Respizzi, che è responsabile del Dipartimento di Riabilitazione e Recupero Funzionale di Humanitas. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. Allora dottor Respizzi, in pratica io me la vedo così oggi: il dottor Confalonieri cercherà di farci capire se la storia d'amore che abbiamo iniziato va bene, quella giusta per noi e come mantenerla. Da lei verremo un po' per capire, no, la crisi di questo rapporto, se dobbiamo salutarlo definitivamente o se ci sono dei margini di recupero. Ci sta? Assolutamente sì. Dottor Confalonieri? Sì, meglio parlare dell'innamoramento che della crisi, quindi sono contento del mio ruolo. Va bene, naturalmente poi potete come sempre scambiarvele. Intanto, dottor Confalonieri, parta con la domanda per i nostri ascoltatori. Ecco, io sono convinto che le storie d'amore, per restare nella metafora che hai utilizzato, con l'attività sportiva siano più un innamoramento lento che non un colpo di fulmine, nel senso che all'inizio c'è un po' di fatica, c'è un po' di paura, c'è un po' di delusione, c'è un po' di frustrazione, poi si supera una specie di punto di rottura e si comincia a capire che non si può più fare a meno dell'attività che abbiamo scelto. Questa è un po' la mia convinzione. Vorrei che i nostri ascoltatori oggi o mi smentissero e mi dicessero no, per noi è stato un colpo di fulmine, oppure confermassero la mia tesi, dicessero superate le difficoltà iniziali, mi sono accorto che il rapporto con l'attività sportiva scelta era così profondo da non poterlo abbandonare o lasciare. Ecco, questa è un po' la domanda che faccio oggi. Dottor Respizzi, tocca a lei lanciare una domanda per i nostri ascoltatori. Io parlerei di adulterio e sport. Perché nel caso dello sport si può cambiare, Certo, sì. E quindi se ti accorgi che non sei più tanto innamorato di quel partner lì, si può anche pensare di fare una soluzione diversa. Perché no? Perché no? Diciamo che nello sport la fedeltà è molto meno criticabile. L'infedeltà è molto meno criticabile. Ah, un lapsus. 800 24 00 24, se volete intervenire per rispondere anche un po' alle riflessioni, agli spunti che ci hanno fornito i nostri ascoltatori. Adesso però io, prima di dare a voi la parola, voglio farvi sentire due testimonianze. Ci siamo rivolti a dei grandi sportivi, a Sara Simeoni, a Christian Ghedina. Iniziamo per cavalleria a sentire che cosa ci ha raccontato Sara Simeoni, come è iniziato il suo innamoramento e poi dove l'ha portata. Diciamo che il mio approccio con lo sport è nato un po' così in modo blando, nel senso che io sono nata in campagna e quindi ero abituata comunque a giocare liberamente. Poi sono andata a Verona con l'inizio delle scuole, una vita diversa e quindi il bisogno di fare anche attività. perciò un po' alla volta, diciamo che dalla scuola media, così mi sono avvicinata a una società sportiva che in quel caso era di atletica leggera, perché l'insegnante faceva da tramite, ecco, con questa società, e quindi con un gruppo di amiche, ecco, è stata la motivazione, è stata questa, la curiosità e la voglia di far qualcosa. Poi l'ho trovato divertente e quindi c'è stata una continuazione. Quando ho lasciato l'agonismo non ho continuato con l'attività sportiva, nel senso che diciamo non ho più fatto niente, più che altro mi sono divertita in varie occasioni a cimentarmi in altre cose, ma così saltuariamente. Diciamo che forse la cosa che mi diverte fare sono camminate, non so, in montagna, ecco, quindi quando c'è la possibilità con gli amici vado volentieri. Ma un consiglio per chi vuol fare sport: diciamo che oggi i giovani hanno una vasta gamma di attività sportive tra le quali scegliere, quindi cosa che era ben diversa quando ero più giovane io. Però diciamo che la scelta migliore sarebbe quella da fare in base alle proprie possibilità. Mi rendo conto che questo non è semplicissimo. Diciamo che se la scuola preparasse come educazione motoria, probabilmente la scelta poi sportiva sarebbe più mirata. L'importante è che i giovani si avvicinino ad una pratica sportiva, in quanto oggi c'è questo bisogno di fare movimento, perché la vita è sempre più sedentaria. Dottor Confalonieri, gliela servita su un piatto d'argento, Sara Simeoni, la battuta? Sì, me l'ha servita su un piatto d'argento, nel senso che questo ruolo della scuola rispetto alla scelta, qui parliamo dei più giovani e non dei più anziani, sarebbe fondamentale. Cioè, educare il ragazzino a fare tutti gli sport e consentirgli di scegliere in base al suo carattere e al suo talento sarebbe fondamentale. Perché poi spesso ci troviamo a fare uno sport per il quale non siamo particolarmente predisposti, soprattutto da piccoli, nasce la frustrazione e conseguentemente lo abbandoniamo presto. Quindi direi che questo è uno dei grandi problemi che abbiamo trattato anche spesso. Educare a tutti gli sport in età giovanile per consentire poi di scegliere in funzione del proprio talento e del proprio gusto. Questo nel nostro paese purtroppo avviene molto poco. E adesso lasciamo il contributo di Sara Simeoni, ci spostiamo dall'atletica sulle piste da sci con Cristian Ghedina. Come è nata, come si è trasformata la sua storia di sportiva? Andiamo. Il rapporto che io ho sempre avuto con gli sport è sempre stato grande. Tutto lo sport che fosse stato soprattutto un po' adrenalinico, emozionante o dove ci fosse velocità è sempre stata la mia passione fin da piccolo. Io ho iniziato con gli sci perché chiaramente vivendo a Cortina qui tutti praticano sport invernali, però io penso che forse la mia grande passione sono stati i motori. Vivendo qui a Cortina, non avanti con gli sci, sono andato avanti con gli sci, ho portato avanti questo sport dove c'è tutte queste caratteristiche che ho elencato prima: velocità, adrenalina, emozioni forti. Poi ho smesso e ho deciso di ritirarmi per i problemi soprattutto fisici. Non riuscivo più a sostenere i carichi di lavoro che facevo quando ero più giovane, perché la schiena, uno sciatore, schiena, ginocchia, articolazioni si massacrano, e quindi ho dovuto smettere e dire basta allo sci. Diciamo, poi dopo lo sci, vista le mie passioni e visto anche questa possibilità che mi è stata offerta di poter provare una macchina, una Formula 3000, sono entrato a far parte di questo mondo, questo ambiente motoristico. Ho iniziato a collegare in macchina, che è altrettanto affascinante quanto era lo sci prima. Io posso consigliare a una persona, una qualsiasi persona, un ragazzino, non di fare lo sport che gli viene imposto magari dai genitori, o i ragazzi o comunque la gente che vuole praticare lo sport deve provare quello che più gli piace, e poi se vuole portarlo avanti professionalmente e andare avanti, fare una carriera in quello sport che ha deciso di fare, lì deve veramente stringere i denti e farlo con determinazione, con passione e con convinzione. Insomma, dottor Respizzi, non facciamoci imporre il fidanzato, no. scegliamo l'attività sportiva che ci piace di più, e nel caso si cambia, si volta pagina. Ma io devo dire che le due interviste di due fenomeni dello sport, naturalmente, e di due persone estremamente fedeli, rimanendo su questo tema, alla loro attività, sono proprio anche la dimostrazione. Entrambi, una volta finita la carriera agonistica, stop, basta, hanno cambiato. Una non fa più niente, quell'altro si è messo a fare le gare di auto. Perché in effetti a quei livelli lì lo sport è estremamente impegnativo anche dal punto di vista mentale. Diventa veramente un rapporto molto vincolato e vincolante nella tua vita quotidiana, per gli allenamenti duri, eccetera, eccetera. Noi invece dobbiamo pensare alle persone che fanno sport per il piacere di farlo, non a livello agonistico così elevato con risultati clamorosi come loro. E quindi queste persone che si avvicinano all'attività sportiva, come dicevo anche prima con Falonieri, devono avere la possibilità di scegliere, ma non soltanto durante la scuola, che sarebbe l'ideale naturalmente, ma anche durante dopo. Tutta la vita, certo, perché è estate, è inverno, è primavera, sei al mare, sei in montagna, ci sono mille possibilità di divertirsi senza annoiarsi soprattutto, ecco. E noi proprio oggi aiuteremo i nostri ascoltatori a scegliere bene, a confermare le loro scelte e a cercare anche di capire come aiutarli quando questa relazione con lo sport diventa difficile, magari c'è stato un trauma oppure non soddisfa più. Ecco, il dottor Respizzi diceva si cambia, no? si può anche tradire. Tra l'altro Angelo da Vicenza ci scrive: cara Nicoletta, io vivo in un harem, mi piacciono tanti sport e ne pratico tanti. 800 24 00 24, raccontateci che sport praticate, perché lo fate, perché che soddisfazione vi dà, se volete cambiarlo, se qualcosa non funziona. Due esperti a vostra disposizione, scriveteci al 349 238 6666. Una mela al giorno. E adesso portiamoci avanti, pensiamo al nostro weekend, molti di noi ne approfitteranno per gite fuori porte. In tempo di crisi può essere utile portarsi un cestino da casa, quindi se l'idea vi piace, vi stuzzica come si dice, restate con noi perché rubiamo qualche spunto per il nostro spuntino al dottor Michele Sculati, che è tornato a trovarci, è specialista in scienza dell'alimentazione. Buongiorno dottore. Buongiorno a tutti. Posso definirla intanto un nutrizionista gourmand? Con misura, naturalmente. Sicuramente l'aspetto della gratificazione nella nostra alimentazione è fondamentale. Solitamente chi mangia bene mangia anche un pochettino di meno. Tuttavia dobbiamo ricordarci anche che oltre a gratificarci, in linea di massima in Italia dovremmo anche mangiare di meno, perché in linea di massima mangiamo troppo. Comunque, veniamo alla parte, al nocciolo del discorso, cioè il picnic. Il picnic, sì. Quindi immaginiamoci il prato, il classico prato, il cestino, la coperta, la cesta di vimini e nelle immagini più tradizionali anche il fiasco di vino. C'è addirittura un dipinto di Manet di metà 800 che è famoso e descrive questa scena. Questa scena però è contestualizzata in una società che lavorava con le braccia, con la propria forza, e i cui dispendi energetici potevano essere di circa 3, 4, anche 5.000 calorie al giorno. Oggi noi siamo seduti davanti ai nostri computer, sulle nostre scrivanie, e il dispendio energetico si è quasi dimezzato, e quindi dobbiamo ricontestualizzare anche il picnic. Quindi molto spesso si vedono delle scene in cui in bellissimi prati ci sono dei picnic un po' abbondanti, magari a questi elementi tradizionali vediamo affiancato anche il barbecue, perché ci siamo avvicinati alla zona in cui fare il picnic molto con la macchina, abbiamo fatto quindi circa 16-17 passi per arrivare dalla nostra macchina al nostro picnic, abbiamo portato tutto il frigobar, tutto quanto, il barbecue, e alla fine troppo spesso mangiamo troppo anche lì, quindi cerchiamo di essere un pochettino moderati. Allora, dottor Sculati, quindi moderazione, sempre però una moderazione che sia gustosa. Che cosa mettiamo dentro questo cestino? Abbiamo la coperta, il cestino è vuoto, però dico, non dobbiamo rimpinzarlo, ma qualcosa. Qualcosa dobbiamo metterci. Allora, diciamo che innanzitutto sicuramente è il regno dei piatti freddi. Tra i piatti freddi io preferirei che ci si orientasse sui primi piatti freddi, quindi le classiche insalate di riso, che possono però evolversi in insalate di cereali come orzo e farro, che vanno abbastanza di moda, e magari miscelati con dei legumi come le lenticchie o i ceci, che ci danno una sazietà maggiore e che hanno una buona quantità di fibre. Possono essere elaborate delle ricette molto mediterranee, molto fresche e gustose. Un piccolo secondo piatto, a questo punto l'uovo sodo può essere portato, mentre dobbiamo stare attenti alle preparazioni a base di uova come la maionese, su cui spesso si fa il vitello tonnato d'estate, perché naturalmente, certo, col caldo. la conservazione di questi alimenti è un pochettino delicata. Idem per un altro secondo piatto trasportabile come il roast beef. Il roast beef sì, si conserva, però direi che se andiamo oltre la terza ora e la temperatura esterna è alta, io sconsiglio di portarselo, mentre andrei su un secondo piatto la cui conservazione può essere lunga, quindi va bene i salumi, però già ne mangiamo a volte un po' troppi, si possono usare le carni salate, si possono usare i nervetti. Questo è un piatto che molto spesso i miei pazienti dicono: ma dottore, ma non sono grassi i nervetti? Ma il nervetto c'è solo al nord, no? Al sud? Al sud. Lei tradisce le sue origini lombarde, eh? Lombarde, sì, sì, esatto. Ecco, e questi possono essere dei piccoli secondi piatti, cioè, naturalmente. Ma mi dia un'alternativa al nervetto, che io peraltro non ho mai assaggiato, non ho mai avuto il coraggio di assaggiare, ma vedo che Laura Vanossi, che è lombarda, da dietro il vetro mi dice buono. Un'alternativa per il sud? Guardi, proteica fredda è abbastanza difficile, la carne insalata secondo me è la cosa più comoda, ma tutto sommato non dobbiamo per forza mangiare prima e secondo, no? Assolutamente, in Italia mangiamo troppa carne, mangiamo mediamente, in Italia si consumano quasi 90 kg di carne a testa l'anno, carne naturalmente incluse quello che poi noi andiamo a scartare. È uscito un bellissimo articolo sulla BBC 2 settimane fa che dice che più del 15% dei gas serra nel mondo vengono prodotti per l'allevamento delle mucche di carne. Sì. Ecco, questo sicuramente. Senta, dottor Sculati, allora io direi una bella tortina di verdura, la frittata. Possiamo metterla dentro? Sì, la frittata è un'ottima soluzione, e le torte salate possono essere un'altra soluzione interessante, molto fresche, molto facili. Naturalmente non dobbiamo assimilarle solo perché c'è lì dentro la ricotta e gli spinaci a qualcosa di leggero, comunque sia, molte ricotte sfiorano il 15-20% di grassi e la parte esterna è di pasta frolla, naturalmente, quindi insomma un pochettino più grasso. Però, noi, guardi, dottore, facciamo così. Noi consigliamo questo picnic agli amanti dello sport, per cui io so che è uno sportivo anche lei, e quindi un cestino per chi approfitta della gita fuori porta per fare una sgambata, andare un po' in bici, farsi una bella passeggiata, e così può anche permettersi magari una porzione un pochino più abbondante di pasta fredda o una torta, una fettina più grande di frittata. Che dice? Questo è il modo migliore di associare il nostro picnic. Senta, se ha bisogno che qualcuno le aiuti a preparare il picnic, io suggerimenti posso dargliene, poi li confrontiamo, va bene? Prepariamo picnic insieme. Ci sta? Sarà fatto. Va bene. Ecco, quello di associare l'attività fisica al nostro picnic è la cosa migliore, in quanto nel momento in cui il picnic è il pasto del nostro fine settimana, quindi ci vuole anche un po' di svago e di edonismo, le regole lì forse sarebbe psicologicamente meglio non averle, usare solo la moderazione, il buon senso, che nel momento in cui facciamo anche attività fisica può essere un pochettino più fantasioso. Dottor Sculati, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Buona giornata a tutti. Pronto soccorso. Dottor Confalonieri, lei fa picnic in giro per l'Italia? Io sono ancora inebriato dall'aver sentito citare i nervetti. Io che sono un uomo che vivrei di nervetti e acciughe, figuriamoci come sto bene in questo momento. Ecco. Dottor Respizzi, lei? Ottimo, essendo padano. Ma siete tutti lombardi qua. Ma non nel senso della Lega. No, va bene. Filippo ci chiama da Milano. Buongiorno Filippo. Buongiorno a voi. Prima parliamo di attività sportiva, poi se vuole ci racconta anche lei se le piacciono i nervetti o se ha qualche altra ricetta per il Sono un gastronomo, ma i nervetti non proprio. Io non li ho mai assaggiati. Non mi invitano. No. Filippo, allora, a che punto è la sua storia d'amore? La mia storia d'amore è, come dire, una storia d'amore molto sofferta a tutti i livelli. Allora, io brevissimamente ho un percorso di sportivo, diciamo così, non un campione, però ho fatto degli sport a livello agonistico, ho collezionato tutta una serie di sport che sono dall'inizio il canottaggio, poi mi sono buttato sullo sci e poi alla fine ho avuto un innamoramento finale e ancora in corso con lo squash, che ho praticato a livello agonistico, eccetera. Il mio grosso problema è che io sono stato operato nel 97 di ernia al disco, L4, L5, L5S1, e praticamente il mio innamoramento, chiamiamolo così, cavalco le vostre sì, parole. Stiamo scherzando un po' così, tanto per è venerdì. È a singhiozzo, perché ovviamente mi blocco. Ogni 2 o 3 mesi ho queste fasi acute in cui devo smettere e devo fare dei trattamenti. Quello che volevo capire è dai medici che sono in linea in questo momento, che cosa realmente io devo fare, o se devo abbandonare, e come mi dicono tutti i fisiatri che mi curano, lei deve nuotare rigorosamente solo a stile libero, e fine con lo squash, fine con lo sci, fine col calcetto, vabbè, il canottaggio non lo pratico più perché ormai ho più di 40 anni, eccetera. Allora, Filippo, l'affido nelle mani del dottor Respizzi. Dottore. Sì. Filippo, quando è stato operato? Che mi è sfuggito? 97. 97. Hanno 10-12 anni fa. Ma io di solito sarei dell'idea che mai dire mai. Per cui quando c'è una patologia di questo tipo, che sicuramente crea un'alterazione della meccanica della colonna lombare, bisogna trovare dei trucchi, tra virgolette, per fare in modo che la muscolatura che protegge la colonna sia adeguata a quello che è successo 12 anni fa. Sì. Allora, non si tratta soltanto di fare qualcosa di diverso, ma magari di fare la stessa attività, probabilmente con dei carichi diversi, ma soprattutto presentandosi sul campo della pratica con una muscolatura adeguata. Ora, io non so lei che cosa abbia fatto in questi 12 anni, ma è molto difficile saper fare bene degli esercizi specifici, che sono quelli della core stability, per gli addominali, per i dorsali, per i lombari. Quindi, il mio consiglio è quello di... Quindi buone speranze per Filippo, lavorare bene su alcuni muscoli per avere una muscolatura adatta a compensare un po' i problemi che ha avuto, certo. Gli aspetti meccanici. Perché ho cominciato, perché ho dovuto smettere? Parliamo di attività sportive, in linea con noi il dottor Confalonieri e il dottor Respizzi e Giorgio, che ci chiama da Genova. Giorgio, buongiorno. Buongiorno, mi senti? Benissimo, Giorgio. Bene. No, io volevo solo dire che io ho 40 anni, 42 per essere preciso. Ah, se ne toglie già due, eh? Vabbè, sì, va bene, fa bene. No, va bene, ne mostro di meno, dicono tutti. No, io sono da quando ho 20 anni, poi mi sono sposato giovane, sarà 15 anni che non faccio più sport, proprio zero. Poi sentivo dei miei amici, poi ho avuto 2 figli, la famiglia, sono solite cose, poi adesso, vabbè, sono single, sono un po' di casini. Adesso... sentivo un po' di amici che parlavano del nuoto, ho provato ad andare a nuoto 10 giorni fa, una volta, e mi sono innamorato, tutti i giorni vado a nuoto. Giorgio, fantastico, il dottor Confalonieri brinda, dottor Confalonieri, Giorgio. Beh, da una parte brindo perché conoscendo il mio amore per il nuoto è evidente che sia contento, dall'altra parte mi smentisce perché ho detto che il colpo di fulmine era raro. È difficile, qui ci troviamo di fronte a un colpo di fulmine, però ecco, forse legato alle caratteristiche di questo sport, nel senso che se uno ha una tecnica sufficiente, indubbiamente la sensazione di fatica nel nuoto e di dolore, anche muscolare o articolare, è molto minore che non nella corsa o nella bicicletta, e quindi è più facile l'innamoramento. Inoltre c'è questo gusto, questa gioia, questo divertimento così naturale che dà il contatto con l'acqua, che sicuramente può favorire l'innamoramento anche acuto, il colpo di fulmine. Insomma si sta arrampicando un po' sugli specchi. Senta, dottor Confalonieri, ma Giorgio ci dice, Giorgio, lei nuota tutti i giorni? Adesso sì, ho preso proprio la passione. Se posso, serve di non saltare mai. Ho cominciato per una volta che ho cominciato a fare un po' di vasca, ero stanco morto. Allora, piano piano. Sono all'inizio, poi le dico onestamente, io ho fatto palestra da ragazzo, ma la palestra in paragone è troppo faticosa. Invece il nuoto è divertente, cioè fai attività fisica, fiato, però a me piace l'acqua, da ragazzo sono uno che sempre ha amato il mare, il nuoto, quindi a livello così amatoriale, quindi mi sono proprio ritrovato con lo sport per me, diciamo. Bravo Giorgio, sono contenta, ma volevo chiedere al dottor Confalonieri, Giorgio nuota tutti i giorni. Sì. Lei invece è sempre un sostenitore della gradualità, poi un giorno di riposo. Giorgio, non è che però adesso che pratica uno sport che piace a lei va bene così, cioè sì, va bene tutti i giorni? Diciamo, no? che all'inizio faceva fatica, adesso ne fa meno, quindi probabilmente ha iniziato facendo non tanto, poi ha aumentato, poi sono convinto che almeno un giorno di riposo settimanale se lo conceda, quindi da quel lato rimango arroccato sulle mie posizioni. Sì, almeno un giorno di riposo settimanale dobbiamo concedercelo. Allora, dottor Respizzi, le do l'onore di rispondere. Per me è un onore perché non arrivano spesso sms da ragazzi di 17 anni, come è arrivato, perché di solito sono a scuola, adesso comunque sono a casa e ci seguono, e quindi vorrei che lei rispondesse a Daniele che ci scrive: ho 17 anni e sono poligamo per gli sport, precisa. Volevo chiedere al dottore quali muscoli in particolare dovrei allenare per prevenire gli infortuni più frequenti per qualsiasi sport. Ripeto che amo praticarli tutti. Quindi il nostro amico Daniele, che ringraziamo per averci scritto, vuole praticare sport e nello stesso tempo gioca sulla prevenzione. Sì, benissimo, ottima idea e soprattutto molta maturità da parte dell'ascoltatore così giovane. Quindi le indicazioni sono per un'attività generale di base che predisponga a qualunque tipo di attività motoria. Allora, ancora una volta si torna a quello che abbiamo detto prima. Io partirei proprio dagli esercizi di core stability, come vengono definiti dagli anglosassoni. Il core è il nostro centro, il nostro baricentro, no? Ed è localizzato intorno al bacino. Mm. Quindi tutti quei esercizi di rinforzo della muscolatura addominale, in particolare i trasversi e gli obliqui, che sono i muscoli che abbiamo lateralmente, che ci sentiamo quando ci tocchiamo i fianchi. Eccoli qua. Eccoli lì. I muscoli lombari e i muscoli dorsali, se sono molto tonici, molto elastici, garantiscono la possibilità di muovere gli arti superiori e inferiori nello spazio come meglio preferiamo, senza farci del danno. Quindi, prima di tutto, visto che è un ragazzo giovane che ancora sicuramente non ha completato la sua maturazione muscolare e ossea, lavorare molto su questi muscoli. Poi successivamente lavorare molto sulla muscolatura estensoria, noi la chiamiamo così, degli arti inferiori, cioè il muscolo davanti, il quadricipite, la coscia anteriore, sì, e sostanzialmente rinforzare i muscoli pettorali e i muscoli dorsali per le spalle. Questo predispone ad affrontare un po' di tutto. Poi naturalmente e poi scolpisce specifici per le varie attività, insomma. Dottor Respizzi, e poi scolpisce, ci ha disegnato un bronzo di Riace. Diventa come Beckham sulla pubblicità, gli dica questa cosa qua. Va bene. Allora, andiamo a Roma, ci aspetta Alessandro. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti quanti. Lei i nervetti non li mangia come me? No. A Roma che cosa vi mettete nel cestino da picnic? Diciamo, io preferisco la marmellata, una cosa che mi piace moltissimo. Va bene. Senta Alessandro, parliamo invece di attività sportiva. Per mangiare la marmellata meglio farne un po', no? Giusto, beh sì, indubbiamente. A Verbagna ce n'è tantissima da fare. Bene. Senta Alessandro, lei che sport pratica? Il tennis. Però non è uno sport, questo è amore, passione, star bene, essere stanco, tornando a casa, io con 6-3 figli, il lavoro faticoso, mi sveglio a mezzanotte, lavoro per le redazioni dei giornali e di conseguenza si finisce alle 11, magari sono stanchissimo, distrutto, non riesco a far nulla. Però se arriva una chiamata che io del tennis risveglia come se stessi bene, io vado a giocare e sto benissimo. E questo la partita e sono contento, perdo, vinco, io è il divertimento e credo che sia la base per un ragazzo, anche per una persona adulta che inizi, che sia fondamentale per quanto riguarda quello che io intendo lo sport, il divertirsi. Alessandro, per lei è sempre stato così il tennis? Sì, sempre un divertimento. Non ha mai avuto un momento di crisi questa sua relazione? Sì, solamente quando non ho potuto praticarlo. E quante volte? C'è stata tanta crisi perché proprio c'è la mancanza del campo, dei scherzi, delle battute, perché poi è carino come sport anche perché frequenti persone che non conosci perché magari è un incastro del momento, sai, tu vai lì, ti presenti la racchetta e incontri un qualsiasi personaggio o persona e poi magari persone che magari non giocano a livello tuo, per cui tu puoi essere diciamo attento al modo di posizionarti davanti a loro, per cui insomma Alessandro dialogo. Come si dice, da cosa nasce cosa in tutto quello che è intorno alla pallina. Dottor Confalonieri, sì, noi parliamo sempre troppo poco di tennis, perché lei forse era un po' scarso. No, non ero male, ero di quelli che facevano impazzire gli avversari. Adesso il dottor Confalonieri si presenta, cioè, era sempre il meglio. Giocavo tutto ad effetto e quindi facevo giocare male quelli più bravi di me. Ecco. Però, neanche Peter Bescapè sta sorridendo, ma non so se ti ha convinto. Comunque la metteremo alla prova, metteremo in campo con Alessandro. Allora, prescindendo da questo, volevo sottolineare un aspetto di quanto diceva. Ecco, il tennis fa parte di quegli sport che hanno un elevato contenuto di gioco, di agonismo, di competizione e quindi di divertimento più naturale. Io direi che proprio il primo passo che deve fare una persona è capire se lo sport più adatto a lui è uno sport di divertimento, uno sport di gioco, oppure uno sport in cui si cerca la fatica individuale, come il nostro amico di prima che cercava il nuoto. Perché ci sono queste due grandi categorie e non sbagliare questa prima scelta è un po' una garanzia di un rapporto che poi funzioni nel tempo. Dottor Respizzi, io so che lei deve salutarci, mi ha detto che stava con noi i primi 45 minuti e noi tra poco andiamo alle informazioni sul traffico. Vuole dare un'ultima raccomandazione, magari prendendo spunto dalla telefonata di Alessandro? Gioca a tennis, gioca con grande passione, si diverte, questo è sicuramente il primo passo, è una garanzia per continuare così, ma dottor Respizzi? Perché mi sembra che Alessandro abbia messo in evidenza uno degli aspetti fondamentali, l'aspetto ludico. Sì. È divertente, anche nell'innamoramento è divertente, bisogna divertirsi anche in quel caso, no? Certo. Quando non ti diverti più ciao. È difficile, ciao, non è più bello stare insieme. E qui è esattamente la stessa cosa, finché Alessandro, il nostro ascoltatore, avrà questa passione, questa voglia di sfidare qualcun altro, anche uno sconosciuto, pur di batterlo naturalmente, perché poi in fin dei conti il risultato è quello lì, non è qualunque gioca per perdere, a qualunque livello si gioca per vincere, finché troverà dentro di sé questo divertimento, questa passione, avrà mille vantaggi dal punto di vista emozionale, perché l'aspetto ludico nelle attività uno contro uno, nelle attività non di resistenza, quelle che citava prima Confalonieri, sono proprio basate su questo aspetto qua, in cui c'è lo sfottò, ci si prende in giro, ci dice che tu sei un brocco, io sono più bravo, ci si sfida e alla fine ci si favorisce l'aperitivo naturalmente. Questo vale dappertutto, in qualunque tipo di rapporto umano, e se uno vuol fare attività sportiva divertendosi rimane sicuramente molto fedele a uno sport finché questo sport lo diverte. Quando non divertirà più perché magari comincia a perdere, si cambia il golf, andrà a fare qualcos'altro. Dottor Respizzi, torni presto a trovarci. Nicoletta, e grazie per essere stato con noi. Adesso noi andiamo a sentire. Grazie dottore. E adesso, prima di continuare ad affrontare l'argomento del giorno, come sempre al venerdì parliamo di attività sportiva, 824 0024, voglio parlarvi di uno studio molto interessante, è stato pubblicato su una delle più prestigiose riviste scientifiche, si chiama Science, è un lavoro che porta la firma Teleton e apre nuove prospettive per le malattie neurodegenerative, pensiamo all'Alzheimer, al morbo di Parkinson. In linea con noi abbiamo l'onore di avere il professor Andrea Ballabio, che è capo del progetto di ricerca e direttore del TIGEM. Il TIGEM è l'Istituto Teleton di Genetica e Medicina di Napoli. Professor Ballabio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Innanzitutto complimenti. Grazie, grazie. Ci racconti. Dunque, noi abbiamo scoperto una sorta di cabina di regia che è presente in tutte le cellule del nostro corpo, che sovraintende allo smaltimento dei rifiuti cellulari, cioè quelle sostanze che si accumulano durante la vita delle cellule, che hanno svolto una loro funzione e che poi devono essere eliminate. Agendo su questa cabina di regia, su questo meccanismo, si tratta di un gene che è un interruttore genetico e che controlla molti altri geni, noi possiamo aumentare la capacità della cellula di liberarsi da queste sostanze, che molte volte si tratta di sostanze tossiche. Professore, quindi aver capito questo meccanismo e soprattutto riuscire ad agire sulla cellula per aiutarla a smaltire, mi passi di questi termini, questi rifiuti, potrà tradursi in tempi abbastanza brevi anche in terapia per le malattie che vengono proprio provocate da questa incapacità della cellula a eliminare i rifiuti? Questo è esattamente quello che noi ci auguriamo e quello che noi vogliamo dobbiamo testare, studiare nei prossimi mesi. Questo è quello che noi scriviamo anche nella nostra pubblicazione su Science. In realtà noi abbiamo già dimostrato che aumentando questa capacità delle cellule di smaltire, la cellula riesce a liberarsi per esempio di una proteina tossica che causa una malattia neurodegenerativa grave, che è la corea di Huntington, e pensiamo che questo possa essere il caso anche per l'Alzheimer e per il Parkinson. Ovviamente per poter arrivare poi a veramente all'applicazione terapeutica c'è bisogno ovviamente di sperimentare questi meccanismi prima sui modelli animali e poi sulle persone ovviamente. Quindi noi però siamo molto speranzosi che questo potrà essere fatto, e voglio sottolineare che questo sarebbe veramente un meccanismo di terapia completamente nuovo e polivalente, cioè la possibilità di applicarlo non su una singola malattia ma su tante malattie. E allora di nuovo rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori a investire e a credere nella ricerca. I passi avanti vengono sempre fatti, i successi ci sono, i ricercatori vanno sostenuti, quindi crediamo nella ricerca, aiutiamola ad andare avanti. Professore, siamo con lei, buona giornata. Grazie. E complimenti. Grazie molto. Dottor Confalonieri, io sono sempre emozionata, poi veramente il professor Ballabio è così chiaro e così proprio un ricercatore magnifico, come ce ne sono tanti in Italia. Adesso parlo di lui perché l'abbiamo avuto in linea. Fa anche a lei questo effetto, mi sembra una cosa magnifica. No, credo sia giusto emozionarsi, credo anche sia giusto dare visibilità a questi aspetti positivi e fondamentali del nostro paese che troppo spesso non hanno visibilità, e dare speranza a chi convive quotidianamente con una dimensione così diversa dalla nostra, che ci occupiamo di sport e quindi di persone al massimo delle loro potenzialità. Allora vorrei leggerle un sms di Pietro che ci scrive: io sono un po' fuori dal coro perché ho finito di andare in palestra e non so che scegliere, mi aiutate? Ho 40 anni e ho una costituzione normale. Ecco, c'è un momento in cui si smette una cosa ma non si sa bene che cosa fare d'altro. Naturalmente abbiamo detto fate quello che più vi piace, perché un'attività che vi diverte sicuramente è un'attività che riuscite a continuare a proseguire, da cui avere soddisfazioni. Ma dottor Confalonieri, penso che Pietro abbia bisogno di un'indicazione un pochino più da esperta, non il mio commento così. Ma in base agli elementi che abbiamo direi a Pietro di andare all'aria aperta. Sì. Cioè, il grosso bene della palestra è che comunque è un ambiente chiuso, un ambiente spesso ripetitivo nei suoi riti e nei suoi programmi, e quindi se c'è questo momento di disaffezione, di stanchezza, sarebbe importante uscire, cercare uno sport da interpretare all'aria aperta, e uno sport i cui allenamenti non siano legati a serie, carichi, tabelle, ripetizioni, ma siano da interpretare quotidianamente in funzione dell'istinto. Quindi il più semplice da tutti, fra tutti, è la bicicletta. Gli direi prenda una bicicletta, prenda una mountain bike e esca seguendo l'istinto, oppure visto che è nella palestra prenda una barca, anche se è più complicato, e comincia a provare a remare, così sì, però, anche sì, un però detta così, detta così, dottor Confalonieri, prendo una barca e remi, mi sembra, no? Ma non è vero, perché ha detto bicicletta e remi. Spesso noi poi complichiamo le cose semplici, nel senso che circoli e società di remo ci sono un po' vicine a tutte le città dove c'è un lago, un fiume, comunque uno spazio d'acqua, ed è abbastanza semplice anche andare, imparare quel minimo di tecnica e cominciare questo tipo di attività. Infatti si ricorda il nostro amico Andrea, esatto, dalla Poltrona, che non l'ama più tanto perché non ci scrive ormai da 2 o 3 venerdì, e lui fa canoa. Ma adesso voglio andare a Treviso perché ci aspetta Oscar. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, niente, io sono pienamente d'accordo con l'intervento che ha fatto anche Sara Simeoni prima. Sì. Beh, io ho 44 anni, dunque sì, quando ero ragazzino sport non è che se ne facessero tanti, cioè c'era la pallavolo, c'era la pallacanestro, c'era il calcio, e via, io, e via andare, come dicevano, esatto, vero? Esatto. Niente, io ho fatto basket, poi quando sono un po' più cresciuto ho iniziato ad andare un po' con trisci. Dopo d'inverno mi sono appassionato allo snowboard, infatti sono 18 anni che faccio snowboard, inverno faccio sci alpinismo, vado con le ciaspole. Cioè, secondo me lo sport è bello cambiarne molti. Primo perché si muovono anche altri muscoli. Muscoli e tutto quanto, a parte, va bene, il cosiddetto nuoto che è quello più completo di tutti. però a me non è che sì, ho capito dal tipo che lei è un pochino più montagnino, Oscar, non l'ha citato subito il nuoto, non è nelle sue corde. No, mi piace anche il mare perché ogni tanto faccio anche qualche immersione, dunque mi piace la montagna perché faccio trekking, faccio le vie ferrate, vado in mountain bike, dunque. Quindi lei il messaggio che manda Oscar è variate. Iniziate molto e soprattutto iniziate dalla scuola. Iniziate dalla scuola, per chi può, e soprattutto noi genitori cerchiamo di aiutare i nostri figli a scegliere e a provare. Grazie a Oscar da Treviso, abbiamo tempo per salutare Gabriele che ci chiama dalla provincia di Milano, e temo che sia della partita dei nervetti, perché dottor Confalonieri, qua via SMS si è scatenata veramente una bagarre tra a favore del nervetto e contro il nervetto. Gabriele, buongiorno. Buongiorno, grazie per darmi la possibilità di parlare con voi. Io i nervetti li mangio, e forse anche con la cipolla soprattutto. Con la cipolla, adesso. ho 52 anni e devo dare purtroppo contro il dottor Confalonieri. 3 anni fa, per colpa di mia figlia, mi sono letteralmente innamorato del rugby, sport che pratico da 3 anni in 2 squadre diverse. Dai. E non riesco a farne a meno. Ha giocato e via, un colpo di fulmine. Mia figlia gioca rugby, io ho iniziato con alcuni papà tanto per fare qualcosa e tanto per tenere sotto controllo le ragazze. Più che altro per tenere sotto controllo i lardo addominali. I lardo addominali ci sono ancora, purtroppo. Però il rugbista ha un fisico possente, no? Ci sta, Gabriele. 1,81 per 108 kg. Dottor Confalonieri, ecco, quindi anche Gabriele, mi spiace, le dà torto. Oggi non è giornata. Diciamo che sono cresciuto perché ho appreso che alcune mie convinzioni non erano corrette, almeno in parte. E però è bello soprattutto trarre insegnamento da queste ultime 2 telefonate in 2 direzioni. Una, cambiate sport e magari fate anche sport diversi nello stesso tempo, il vecchio concetto del cross training che così spesso abbiamo portato avanti anche con i nostri ascoltatori. Non è cambiamo spesso, ma proviamoli anche contemporaneamente diversi. E l'altro, il non è mai troppo tardi. Ecco, cioè, perché chi penserebbe, no? Inizio al rugby a 40 anni, invece si può. Non ci sono limiti alla fantasia, se c'è un minimo di attenzione alla prevenzione, e su questo concordo proprio al 110% con quanto diceva il dottor Respizzi, l'attenzione a questi muscoli della fascia, se vogliamo, addominali, lombari e dorsali bassi, è di fondamentale importanza. È la chiave di qualsiasi programma preventivo. Con un minimo di attenzione alla prevenzione possiamo cominciare qualsiasi sport in qualsiasi momento. Dottor Confalonieri, innamorarci subito. Peter Bescapè mi dice che devo salutarla, lui è un grande sportivo, per cui obbedisco. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, e invece per questa casa non è un albergo, domani a mezzogiorno vi aspetto. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.